italianpod.com. Silvia, cosa fai? Stai fumando? No! No, papà! Hai appena 15 anni! Infatti, impossibile! Sai che ho smesso di fumare quando avevo 13 anni!